31. Attorno al danzatore bianchi e indiani battevano le mani. La melodia delle cornamuse e il ritmo serrato del tamburo parevano arrivare da sottoterra, sepolti dal frastuono e dalle grida di incitamento. L'uomo al centro dell'attenzione saltellava, alternando le gambe, ginocchia alte, mano destra sollevata sopra il capo, mano sinistra sul fianco. Indossava il cappello tradizionale della sua gente, quello che gli inglesi chiamavano con il disprezzo merda in testa. Il kilt e i calzettoni a losanghe erano rimasti a casa, in un piccolo podere di proprietà dei Johnson. Fin dall'attacco Peter aveva riconosciuto la musica, una marcia. I passi invece erano indecifrabili. Più che danza era un gioco di gambe per disorientare l'avversario e sorprenderlo con un colpo di daga. Stese sull'erba ingiallita dal sole, due spade formavano una croce. Peter conosceva la sfida. Consisteva nel battere i piedi accanto alle lame, ora in un quadrante, ora nell'altro, senza mai pestarle. Non un semplice gioco con il consueto corollario di scommesse. Ballare sulle spade era uno dei tanti modi per ottenere auspici. I Mohawk ne erano entusiasti. Suo padre giurava che la danza di guerra delle Highland e non gli estenuanti concili avevano persuaso le sei nazioni a combattere i francesi. «Non c'è da stupirsi», diceva. «Gli scozzesi sono i più indiani tra i popoli d'Europa». Il tamburo divenne incalzante. I musicisti davano prova di entusiasmo guerriero. Le grida si unirono in coro. Peter guardò il danzatore. Volava, sospeso a un pollice da terra, i piedi talmente veloci da galleggiare sulla polvere. Un guerriero capace di muoversi in quel modo doveva essere un bersaglio impossibile per chiunque. Il cerchio di spettatori si strinse. Gli Highlander avanzavano con lunghe falcate e sospese, a passo di danza. Gli altri si sforzavano di imitarli. Sembrava un esercito in massa che accerchia minaccioso l'ultimo nemico rimasto in piedi. In realtà si avvicinavano per controllare meglio che il campione non pestasse i ferri. Se ci fosse riuscito, l'indomani avrebbero respinto l'assalto dei ribelli e il battesimo del fuoco di Peter sarebbe culminato in una vittoria. La polvere offuscava la vista delle spade. Il crepuscolo estivo ammorbidiva linee e contrasti nella piazza d'armi di Fort St. John. Anche le sentinelle sui bastioni tendevano l'orecchio alla musica, che si spinse nell'ultimo furioso galoppo. Ci fu un sussulto collettivo, poi le voci tacquero. Le mani smisero di battere e indicarono la croce ai piedi del danzatore. Tutta la prima fila tremò di battibecchi e contestazioni, poi quella dietro e dietro ancora. Il cerchio d'uomini trattenne il fiato. Nel silenzio improvviso, Cormac MacLeod avanzò verso il ballerino, che attendeva sull'attenti, di fronte alle spade. Il gran capo degli scozzesi si inginocchiò solenne di fronte alle lame incrociate. Soffiò nella polvere, poi alzò lo sguardo sul guerriero. MacLeod impugnò le armi, le sollevò alte in forma di croce e per tre volte batté le spade l'una contro l'altra. «Bualid mi huhan sachen!» urlò a pieni polmoni. «Bualid mi huhan sachen!» ripeterono gli Highlander in un boato d'esultanza. Si gettarono sul loro campione e lo portarono in trionfo sopra le teste. Sullo spiazzo rimasero gli indiani, ancora perplessi sul risultato della danza, della battaglia e delle scommesse. Vespero già riluceva accanto alla luna. Peter respirò l'aria della notte. Non aveva mai veduto un edificio più antico, nemmeno ad Albany, nemmeno a New York. In realtà il forte era stato ricostruito di recente, ma la palizzata, già ricoperta di muschio, sembrava sorgere dalla terra da prima dell'inizio dei tempi. La bandiera britannica sventolava pigra in mezzo al fumo dei fuochi. I colori spenti della notte la facevano apparire bianca e nera. Il giorno addietro, una selva di urrà aveva salutato il loro arrivo dagli spalti del forte. La guarnigione era sparuta. L'84esimo reggimento, i Royal Highlander Immigrants, era in realtà poco più che un battaglione. Reclutati a Boston, New York, Canada, Nuova Scozia. Gente appena arrivata sul suolo americano. Pescatori di Terranova, coloni della Carolina, sbarcati con ben altre speranze, avevano deciso in fretta da che parte stare. Soldati nella divisa verde dei reggimenti canadesi. Quella rossa, col kilt, sciabola, pistola, gli era stata promessa, ma non era ancora arrivata. Ora il forte brulicava da attività e preparativi. Si riempivano i corni di polvere, si pulivano i fucili. MacLeod affilava la lama della spada sulla fresa. Nessuno avrebbe dormito prima della battaglia, solo poche ore di incoscienza per raccogliere le forze e farsi trovare in piedi all'alba. Peter, di certo, non avrebbe chiuso occhio. Alla fine il momento era arrivato. Quel pomeriggio, zio Joseph e John Butler avevano studiato il piano di battaglia. I ribelli si aspettavano di trovare un piccolo contingente barricato dentro il forte, invece loro li avrebbero aspettati lungo il fiume. Le guide sostenevano che il posto migliore era una strettoia poche miglia a sud, dove la corrente avrebbe rallentato l'avanzata dei nemici. «Gli scozzesi hanno ballato le loro danze», sentì la voce dello zio proprio dietro l'orecchio. «Tocca alle nostre». Peter gli sedette accanto ed estrasse uno specchietto. Senza parlare, cominciò a dipingere il volto in larghi riquadri rossi e azzurri, mentre Joseph finiva di pulire la propria arma con lo stantuffo e uno straccio insaponato. «Dicono che lo scalpo è l'essenza di un uomo, ma io dico che l'essenza di un uomo è il fucile. La parte più intima del fucile cava, vuota. L'anima dell'uomo è inafferrabile, imprendibile. Senza il fucile, sei solo un altro animale in lotta per mangiare. Il fucile, Peter, è il dono di Dio agli uomini dei boschi, che li ha resi signori sopra le bestie». Joseph si concesse una pausa. Rifletté per un po' e concluse: «Certo, occorre essere signori giusti, non tiranni». Appoggiò il fucile ed estrasse lo specchio e i colori dalla sacca di pelle. Peter non aveva mai udito parole simili. Joseph prese a dipingersi le guance. Li raggiunse Philippe Lacroix. I capelli ricadevano folti sulle spalle. Le pitture di guerra erano sobrie. Aveva utilizzato soltanto il nero per dipingere una striscia sugli occhi. «Domani, durante l'attacco, resterai accanto a me e Philippe», disse a Joseph. Peter deglutì. Senza sapere cosa pensare, si limitò a fissare il calderone che bolliva sul grande fuoco al centro del campo. La carne dolce dell'orso cuoceva nel suo grasso. Come il cacciatore estrae le viscere dal ventre della preda, i capi guerrieri avrebbero afferrato a mani nude la carne bollente. Peter e i guerrieri della sua età dovevano servirla ai più anziani, insieme al liquore. Corpo e sangue dei nemici avrebbero dato forza agli uomini per la guerra. Terminata la cena, anche i Mohawk avrebbero danzato fino allo spasimo, fermandosi a rifiatare tra canti e racconti d'imprese. La luce guadagnava il cielo mentre una brezza fredda spargeva le braci e dissipava l'eco di balli e canzoni. Peter, equipaggiamento pronto da ore e faccia dipinta, osservò gli Highlander in piedi davanti al cappellano per la Santa Messa. In mezzo ai vapori dell'alba, con i fucili piantati a terra e le sciabole al fianco, ricordavano le illustrazioni di un libro nella biblioteca di Johnson Hall. Cavalieri armati di lance e spade, pronti a combattere per il proprio re. John Butler e il figlio erano in mezzo a loro. Si misero in fila davanti al sacerdote e si inginocchiarono uno dopo l'altro per ricevere il corpo di Cristo. Ognuno porgeva il fucile perché venisse benedetto. Per ultimo Peter vide Lacroix rimettersi in piedi e farsi il segno della croce. Si diresse verso il gruppo dei guerrieri. Peter si affrettò, rendendosi conto di battere i denti a labbra chiuse, al ritmo della danza di guerra scozzese. Bianchi e indiani presero a uscire dal fortilizio in due file parallele che puntarono sul bosco, non più di 500 uomini. Due ore dopo, gli esploratori tornarono a riferire che l'armata ribelle avanzava lungo la sponda ovest del Richelieu. Almeno 2000 uomini. Peter pensò che era così che si misurava il coraggio: affrontare un avversario compensando la disparità delle forze con l'astuzia e la sorpresa. Si sentì alle soglie di una prova memorabile.